A bordo campo di Dario Ricci. Francesco ha porcellato sul rettilineo finale. Dietro gli ultimi. Dai Francesco, non guardare niente. Dai che sei medaglia d'oro. Ormai ci siamo. Sei arrivata, è oro. Francesca è oro. Va verso il traguardo Francesca ha porcellato. Oro olimpico per Francesca. Medaglia d'oro a queste Paralimpiadi per l'Italia. Grande tifo, medaglia d'oro. Medaglia d'oro. Eh sì, medaglia d'oro al collo. Davvero straordinario, davvero bello l'oro conquistato alle Paralimpiadi di Vancouver da Francesca Porcellato. È stato quello la gemma di una spedizione a livello paralimpico soddisfacente, anche più sicuramente probabilmente della spedizione degli atleti normodotati. Beh, prendiamo spunto dalle Paralimpiadi per parlare oggi a tutto campo e a bordo campo con Luca Pancalli, 46 anni, avvocato, pentatleta, nuotatore, dirigente sportivo italiano, presidente del Comitato Paralimpico e che è stato anche, lo ricordiamo, commissario straordinario della Federcalcio negli anni bui di Calciopoli, che ai noi ancora non sono conclusi. Beh, benvenuto presidente Pancalli a bordo campo. Partiamo proprio dalle Paralimpiadi di Vancouver, direi bilancio tutto sommato più che positivo quello della spedizione azzurra, 7 medaglie e poi la gemma al giorno finale, l'oro di Francesca Porcellato. Ma è un bilancio che io non esito a definire straordinario. Avevamo detto prima della partenza che già eguagliare i colleghi olimpici sarebbe stato un ottimo risultato. Siamo andati al di là delle previsioni, merito soprattutto dei ragazzi che sono stati veramente encomiabili. Poi ecco, c'è stato quest'oro della Porcellata un po' sul filo di lana, come è avvenuto per Razzoli per le Olimpiadi, che veramente proviene da una ragazza alla quale andrebbe fatto un monumento per quello che rappresenta lo sport paralimpico. Però è anche soddisfacente perché insomma siamo stati presenti su tutte le discipline e insomma abbiamo dimostrato che il lavoro paga. Tra l'altro presidente, abbiamo ottenuto risultati anche in quelle discipline magari meno popolari anche a livello paralimpico, come lo sledge hockey, sorprendente per grinta e spirito battagliero, e anche il curling in carrozzina abbissato quello che era stato il successo di Torino 2006. Esattamente, diciamo che noi rispetto a Torino 2006 peraltro abbiamo anche confermato la nostra posizione nel medagliere, ma le vere sorprese che già in apertura le avevo sottolineate sono state quelle dell'ice hockey, della squadra e del curling, perché non solo hanno avuto il gran merito di essersi sapute qualificare per le Paralimpiadi, che già di per sé era un obiettivo difficilissimo, ma hanno dimostrato sul campo di essere squadre, quindi di essere sicuramente all'altezza della situazione e peraltro raccogliendo anche consensi da parte dell'opinione pubblica, perché grazie a Rai Sky, che quest'anno hanno veramente dato una copertura straordinaria, tanta gente si è appassionata con picchi di ascolto incredibili. Ma poi peraltro devo dire anche il fatto di aver diversificato la conquista delle medaglie tra lo sci alpino e il nordico, e sia al maschile che al femminile, dà il segno di un comitato che evidentemente sta andando nella giusta direzione. È arrivato finalmente il tempo del salto di qualità nella considerazione generale dello sport paralimpico, e dicendo questo faccio riferimento a come i campioni paralimpici vengono apprezzati e stimati nel mondo anglosassone, ad esempio, no? Dove quasi non si sottolinea, con quello spirito anche di buonismo, di sentimentalismo un po' mediterraneo, l'handicap fisico rispetto alla prestazione sportiva, che poi alla fine è quella che conta. Crede che queste Paralimpiadi possano lasciarci questo in eredità anche qui in Italia? Ma io credo assolutamente di sì, perché veramente ho notato, forse la carta stampata è mancata un pochino, però ho notato nell'attenzione da parte dei media, ripeto, televisivi, una grande attenzione, una grande crescita anche dal punto di vista lessicale, no? E il modo di presentare gli atleti. Sono stati presentati come dei grandissimi atleti, dei grandissimi campioni, apprezzati per la loro attività tecnica, per le loro anche capacità nel superare le difficoltà che magari ovviamente dal punto di vista funzionale la disabilità comporta, e questo credo che aiuti non soltanto il movimento sportivo paralimpico, non soltanto il movimento sportivo italiano in genere, ma aiuti, diciamo, con un pizzico di presunzione anche un paese a crescere, perché poi, così come i miei figli hanno seguito le paralimpiadi per televisione, tanti bambini, tanti ragazzi lo avranno potuto fare, e forse un pizzico di, come dire, di consapevolezza in più su quello che significa disabilità l'avranno acquisito. Medagliere dominato da Germania, Russia, Canada, Slovacchia, in cui l'Italia ha fatto la propria figura, ma siamo abbastanza staccati dal vertice. Presidente, cosa ci manca ancora per crescere sotto il profilo dello sport paralimpico, che forse ancor più dello sport dei normodotati è l'indice di civiltà, mi permetto di dire, di un paese? Quello che noi non dimentichiamoci mai di operare in un paese che ha tanti pregi e tanti difetti come tutti i paesi. La nostra difficoltà rispetto, ecco, alla strapotenza della Germania, che poi insomma si è addirittura collocata prima della Russia, degli Stati Uniti, del Canada, è quella di non avere una rete fitta e di unità, di centri di riabilitazione dove lo sport è considerato parte importante e strategica nei programmi riabilitativi, non avere un rapporto con il mondo della scuola che anch'esso strategico ai fini promozionali, quindi non avere, diciamo, quei presupposti che ci consentono di lavorare alla base in termini promozionali. Ma io credo che questo sia un po' un limite ovviamente del nostro movimento, un problema del nostro sport paralimpico in Italia, ma è un limite che poi accomuna tutto lo sport italiano quando noi sosteniamo che manca nel nostro paese una cultura sportiva in genere, per cui ecco la difficoltà poi si traduce nella difficoltà di trovare nuovi giovani che dietro questi campioni che oggi ci hanno reso orgogliosi a Vancouver possa rappresentare il futuro. In Germania tutto questo è superato, ma come stanno lavorando in Russia piuttosto che in Ucraina, che in altri paesi, però ecco, se voi vedete, l'Italia è accomunata alla Francia, evidentemente da questo punto di vista abbiamo problemi similari. Scarsa cultura, diceva lei, cominciano a scarseggiare anche i soldi, no? Ha visto che il CONI ha varato una sorta di finanziaria al risparmio per contenere le spese, soprattutto contenere gli sprechi. Da questo punto di vista il Comitato Paralimpico Italiano come è messo e soprattutto come può lavorare e progettare il futuro? Innanzitutto mi sembra assolutamente corretto che in un momento in cui in tutto il paese c'è un richiamo, come dire, a stringere la cinghia, anche lo sport italiano fornisca indicazioni in questa direzione, perché insomma è giusto che il senso di responsabilità prevalga. Il mondo paralimpico, diciamo, non è che sia abituato a, come dire, a navigare nell'oro, per cui siamo abituati a stringere la cinghia. Detto questo, ovviamente l'importante dal punto di vista economico per noi non sono soltanto ovviamente la quantità di denaro che si riesce ad avere come finanziamento per poter investire nei programmi, ma ho sempre ritenuto che al denaro siano più importanti le idee e i programmi, cioè è importante avere delle idee e dei programmi su come indirizzare le risorse. È evidente che da questo punto di vista il Movimento Paralimpico Italiano è da sempre sostenuto sia dal CONI che dal governo, per cui insomma siamo andati crescendo negli ultimi anni, ovviamente abbiamo tentato sempre di farci bastare quello che, come farebbe un buon padre di famiglia, no? Quello che avevamo a disposizione. Ovviamente l'auspicio è che si possa ovviamente avere anche una certezza di finanziamento, perché è difficile programmare l'attività di quadriennio in quadriennio e soprattutto l'attività promozionale, che è strategica e fondamentale e rappresenta le fondamenta di un movimento sportivo, se non si ha certezza di finanziamento. Ora, detto questo, ovviamente stiamo lavorando in questa direzione affinché questa ci possa essere. Arrivate le TV, arrivata l'attenzione generale, arrivate le medaglie, quello che lei ha denunciato in questi giorni è stata anche la paura che arrivi la ricerca del campione ad ogni costo. Anche lo sport paralimpico è macchiato dalla piaga del doping, lo sappiamo bene noi proprio perché abbiamo affrontato nelle sfide del curling la formazione svedese che ai loro ha presentato proprio un atleta dopato, ma questo è solo un episodio. Quanto è concreta questa minaccia in questa dimensione paralimpica dello sport a cinque cerchi, Presidente? Ma ovviamente il tema del doping, io ho sempre definito l'aspetto tremendamente normale, cioè il mondo della disabilità, il mondo dello sport è uno solo, poi ovviamente, passatemi il termine, l'imbecille che ricerca strade e scorciatoie per ottenere la prestazione lo si trova sempre. L'importante, così come da sempre stiamo facendo, è prevenire piuttosto che curare, insomma, da questo punto di vista il CONI e noi siamo molto molto molto attenti a come dire, ad innanzitutto garantire un'attività di informazione e formazione sia degli atleti che del campo tecnico, nel campo dei tecnici, di tutto ciò che può rappresentare utilizzo di sostanze illecite, ma nello stesso tempo anche nei controlli. È evidente che alla crescita di un movimento sportivo internazionale che sempre più si avvicina ai limiti della prestazione, no? È evidente che poi la ricerca dell'illecito ci possa essere, però da questo punto di vista, da un lato mi spaventano i casi che, come questo dello svedese che giustamente citava, emergono nel mondo paralimpico, dall'altro sono come dire, contento del fatto che sono veramente assolutamente limitati nei numeri, però secondo me, ecco, è una cosa sulla quale stare attenti, perché il rischio della ricerca del campione a tutti i costi ci può essere. A bordo campo. Ancora insieme a bordo campo con Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Presidente Pancalli, 4 anni fa era stato nominato commissario straordinario della Federcalcio nel momento più difficile, eravamo in piena tempesta Calciopoli. A 4 anni di distanza, come valuta il momento del calcio italiano? Sicuramente insomma, la situazione odierna non è paragonabile a quanto si è vissuto 4 anni or sono. Sicuramente 4 anni fa la situazione era difficile per tutta una serie di considerazioni, non ultimo anche per i fatti, ahimè, di violenza che sembravano, hanno macchiato e sembravano non aver fine all'epoca, prima con la morte di Licursi e poi quella dell'ispettore Raciti, per cui era una situazione veramente difficile da gestire. Uscivamo dalla vicenda di Calciopoli, per cui insomma bisognava recuperare anche nel rapporto con l'opinione pubblica una buona dose di credibilità del sistema. Oggi io credo che insomma la nave stia navigando in mari molto meno perigliosi, anche se sempre complicati nella navigazione perché è complicato il movimento, ma insomma il tempo mi sembra volgere al sereno. Siamo alle vigilia di un mondiale di calcio, entriamo da campioni del mondo, poi dopodiché insomma incrociamo le dita. Quello sicuramente. Le chiedo ancora, Presidente, ricordo la sua posizione in merito al famigerato e contestato titolo del 2006, no? Che poi il commissario straordinario allora Guido Rossi assegnò all'Inter, la Federcalcio assegnò all'Inter, lei invece espresse parere contrario. A distanza di 4 anni conferma quella presa di posizione? Ma in realtà su questa presa di posizione ci sta un po', secondo me si è fatta un po' di confusione. Io in realtà non espressi parere contrario, io affermai all'epoca solamente che era una decisione che poteva essere presa o non presa e che all'epoca la Federazione del Calcio guidata da Vito Rossi decise di prendere, che è una cosa diciamo leggermente diversa, però ecco, ritengo che oggi a 4 anni di distanza sia ben inutile parlare ancora di questioni che insomma a mio modo di vedere dovrebbero caratterizzare fogli di pagina che abbiamo già girato. Beh, lo speriamo tutti, anche se nelle curve questi echi, e purtroppo non solo questi, ancora rimbalzano. Qui arriva un'altra agenzia, c'è anche il nome e cognome dell'agente di polizia che purtroppo è deceduto. La vittima era l'ispettore capo Filippo Raciti. Aveva soltanto 38 anni. Faceva riferimento all'omicidio dell'ispettore Raciti. Lei immediatamente il giorno stesso della tragedia sospese tutti i campionati in segno di lutto. Il calcio doveva fermarsi. Da questo punto di vista sembrava che si fossero fatti dei passi avanti, Presidente, glielo dico francamente. Gli ultimi episodi, a partire dal razzismo delle curve, a partire dalla facilità con cui i gruppi più ultra si stanno lentamente rimpossessando delle curve, ci stanno facendo perdere un bel po' di speranza. Dal suo punto di osservatore al momento esterno, condivide questa valutazione? Condivido anche se ovviamente un po' di passi avanti sono stati indubbiamente fatti, però indiscutibilmente ci sono dei fattori, dei fatti, come dire, sui quali riflettere, che sicuramente ci fanno riflettere non soltanto da uomini di sport ma da semplici osservatori e cittadini. Certamente però, insomma, si sta lavorando in una direzione. È deprecabile assistere ovviamente ad atteggiamenti razzistici durante partite di calcio e nei confronti di giocatori poi assolutamente italianissimi, manifestare il proprio dissenso nei confronti di un italianissimo calciatore, sia pur di colore, può essere fatta in qualsiasi modo, non cadendo nella violenza razzistica, per cui insomma, ma questo fa parte di un tema che ahimè credo che non sarà ben difficile scrollarcelo di dosso, fermo restando che poi quando affrontiamo argomenti di questo tipo cadere nella retorica, nella demagogia è come dire estremamente facile. Certamente tante cose sono state fatte, ma tante altre bisogna ancora fare affinché si recuperi effettivamente quel rapporto tra tifoseria, tifoso, normale cittadino e il mondo del calcio che fino ad oggi insomma mi sembra un po' compromesso. Ecco, da dirigente sportivo di alto livello, presidente, però due o tre punti da cui partire sicuramente ce le avrà in mente, o comunque un contributo concreto a questa discussione. Lei da dove partirebbe? Ma io partirei innanzitutto dal fatto che se ci sono delle regole, delle norme, delle leggi che vengano fatte rispettare. Io credo che insomma il fatto che si possa immaginare che gli stadi magari continuano ad essere come lo era in passato, oggi molto meno, però in passato, se voi vi ricordate, era così, terra di nessuno, dove tutto era consentito e possibile, insomma bisogna un po' lasciarli da parte. Quindi se esistono le norme e le leggi vadano applicate, chi sbaglia paga, che deve pagare, un po' di sana, non voglio essere assolutamente repressivo, per carità di Dio, però io credo che poi il cretino che fa male al mondo del calcio fa male pure alle tifoserie, fa male pure ai gruppi di tifoserie organizzate quando virtuosi, insomma fa male a tutti. Poi dopodiché c'è un tema impiantistica che sicuramente so che è all'attenzione del mondo del calcio, come non potrebbe essere altrimenti, d'altronde un tema impiantistica che certamente va affrontato, perché poi nel momento in cui si affronta la cultura della tifoseria nel nostro paese, bisogna pure immaginare di dare però alla tifoseria anche un luogo dove si manifesta uno spettacolo sportivo e non luoghi barrierati, no? Dove insomma sembrano più delle arene di scontro tra tifoserie che non luogo di spettacolo sportivo. E poi certamente c'è, ma qua se cadiamo nella demagogia e nella retorica, ma è pur vero, bisogna pensare pure alla diffusione di una cultura che sicuramente ci aiuti a recuperare quel sano rapporto al sistema del calcio, ma parlo per tutti, per tifosi, tifoserie, dirigenti sportivi, che tutti quanti insomma rimodellassero un po' la propria azione su un clima di normalità, come è giusto e sia consono che possa essere uno spettacolo sportivo. Insomma, io mi chiedo perché certe cose in altri sport, sia pur non meno importanti, ma altrettanto importanti, ma forse magari meno noti rispetto al calcio, tutto ciò non avvenga, quindi evidentemente su qualcosa bisogna interrogarsi. Presidente, nell'ottobre 2007 a Cardiff Ucraina e Polonia ci soffiarono sotto il naso a sorpresa l'assegnazione di Euro 2012, fu una pagina amara per il nostro calcio, campione del mondo, in cui lei era ancora attivamente coinvolto. Adesso siamo in corsa con Turchia e Francia per Euro 2016, ci aiuti a capire perché dovrebbe finire diversamente stavolta? Ma io francamente non sto seguendo la vicenda della presentazione della candidatura ai prossimi europei, però certamente ho grande fiducia nel presidente Abete, nel comitato che sta portando avanti, organizzato il comitato di lavoro organizzato dal presidente Abete in questa direzione. Perché dovrebbe andare differentemente? Ma perché forse bisogna ricordarsi che, nonostante qualcuno abbia detto che il dossier non era ben preparato, il dossier era il migliore in quel di Cardiff, e lo dico perché lo preparammo e partecipai insomma nel mio ruolo all'epoca. Bisogna ricordarsi che all'epoca ci presentavamo a distanza di pochi mesi dalla morte dell'ispettore Raciti, da Calciopoli, da Licursi, da tutto quel casino che era successo in Italia, per cui insomma un po' di differenze ci sono. Oggi io credo che comunque il sistema calcio italiano abbia dato dimostrazione di saper la federazione lavorare seriamente, di avere comunque impostato il lavoro in una certa direzione, per cui insomma il clima è del tutto diverso. Dopodiché ovviamente si è sempre nelle mani di chi vota e di chi valuta. Come, all'epoca fu veramente brutto, perché francamente io onestamente dico non me l'aspettavo, certamente poi la motivazione politica per Polonia e Ucraina, credo che forse qualcuno si sarà pure pentito per come poi si sta profilando l'organizzazione, però detto questo insomma da italiano e da uomo di sport io non posso che tifare affinché poi gli europei possano giungere in Italia almeno nel 2016. Parlavamo di voti e valutazioni, presidente Luca Pancalli, le chiedo veramente un'ultima cosa, ci si vede un giorno alla guida del CONI? Non è un'ipotesi così campata in aria e molti spesso l'hanno galteggiata in questi anni. Guardi, io sono abituato a vivere nel presente, per cui non faccio programmi per il futuro, in questo momento come credo di aver sempre dimostrato nella mia militanza da dirigente sportivo di essere assolutamente rispettoso dei ruoli nel tempo, così come dissi quando ero in Federcalcio e qualcuno caldeggiava la mia permanenza in quel mondo, dissi che avevo un ruolo e il mio ruolo lì terminava e avevo altri impegni. Io oggi ho questo impegno, per cui vivo nel presente. Grazie al presidente Pancalli per essere stato nostro ospite. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it. A Bordo Campo torna domenica prossima alle 14.30, sabato alle 13.15 invece l'abituale appuntamento con A Bordo Campo, Sudafrica 2010 nel cuore del mondiale. Un saluto da Dario Ricci.